Stai su Radio Wombat e questa è Hot Hertz. Radio Wombat. Hot Hertz. Buonasera amici ascoltatori di Radio Wombat, siete su 8 Hertz, questa è l'ultima trasmissione per la... ritornerò a settembre dopo questa lunga pausa estiva che a sto giro prendo perché è sempre più difficile riuscire a farvi ascoltare delle puntate che alla fine cercano di dire qualcosa e di farvi interessare a argomenti musicali tra i più astrusi. E volevo finire appunto in bellezza questo ciclo di puntate del 2018, anche se poi appunto continueranno a settembre, si fa come nelle scuole praticamente, presentando una puntata che appunto ha a che fare ovviamente con il Brasile. Quello che avete ascoltato prima era una delle miliardesime versioni di Brasil fatta da Cornelius, che è questo giapponese, si chiama Keigo Yamada, suona elettronica da tanto. Il disco la trovate su Point, che è del 2001, e lui aveva anche un'etichetta che si chiama Trattoria, però è uscito anche per Polydor e più che altro per Matador, con tantissimi dischi come questo. Comunque, proprio di Brasile si parlerà, e fortunatamente non sono solo, ma sono con un compare stasera che si chiama Federico Fragrasso. Ciao. Ciao a tutti, buonasera. Che che è anche un produttore con oddio, mi sono già perso con Ursuonico, una giovanissima etichetta all'attivo adesso per ora solo due produzioni, ma molto molto particolari, e quindi noi già la sighiamo da ora in modo tale, insomma, anche di farvi interessare da subito di queste proposte. Cosa ci dice a riguardo dell'etichetta? Ciao. Ciao a tutti. Che dire, Ursuoni è un progetto che nella testa mia e anche nella testa di Simone Vassallo, che insomma finora è stato mio compare in tutta questa avventura, ci frullava in testa da un po', nel senso che per chiunque fa musica a livello underground si è trovato probabilmente nella vita ad avere a che fare con situazioni che non lo soddisfacevano, cioè magari avere a che fare con vari corpi intermedi, no? Come possono essere le etichette, non lo so, gli uffici stampa, chi più ne ha più ne metta. Per un motivo o per un altro finisce sempre che magari le cose non vanno come vuoi tu e attribuisci poi, diciamo, la causa di tutto questo a, appunto, elementi esterni. Certo. Quindi a un certo punto io mi sono detto, sai che chi fa da sé fa per tre, di conseguenza ho deciso di mettere su una situazione che fosse... anzitutto una maniera per diciamo mettere fuori le cose che producevo io / noi in maniera autonoma, senza doversi che appunto che è un po' il primo desiderio di chi fa autoproduzione, sì, insomma, sì, sì. Do it yourself, del resto e quindi anche del controllo un po', sì, totale controllo della artistico cosa. Totale della faccenda, e anche controllo logistico, che non è un aspetto da sottovalutare. Chiaramente significa farsi un gran mazzo su mille altri aspetti oltre a quello del suonare, che è un millesimo di tutto quello che c'è da fare, sì, poi sì, in questo sì. campo, e che è la parte chiaramente più bella, però del resto dà anche grande soddisfazione. Cioè, ora noi finora abbiamo fatto ancora davvero poco, perché abbiamo due dischi all'attivo e quindi siamo assolutamente all'inizio. Però insomma, nel panorama, almeno fiorentino, queste due uscite sono molto particolari, proprio anche come carattere sonoro rispetto, diciamo, non so, al gruppo meramente punk, hardcore o metal. È una cosa un po' particolare, diciamo. Ti ringrazio, cioè, spererei davvero di sì. Effettivamente c'era anche un intento di proposta artistica in tutto questo, nel senso che più o meno quello che io e Simone, che siamo persone che suonano insieme da 100 miliardi di anni, nei Tribuna Ludo, perché li conosce, c'era sicuramente da parte di tutte e due la volontà di appunto avere una proposta artistica coerente, ovvero di proporre tutte uscite che in un certo qual modo avessero una certa coerenza a livello di, appunto, di suoni. E fondamentalmente quello che a noi ha sempre interessato come tipo di proposta è sono, diciamo, un tipo di musica sicuramente che ha grande attinenza con il punk, però in senso lato declinato, certo, molto più sul versante del ritmo, quindi musica che ha una componente ritmica molto, infatti, accentuata. Le due produzioni tue sono state, appunto, la prima il disco di Lampreda di Simone che è proprio una roba fatta a drum solo, ma ne parleremo dopo, e poi Caveiras, che è questo terzetto, come si può dire, sì. questo trio, batteria, tra l'altro sempre di Simone, tastiere, voce, tue. Niente tastiere, io ho insomma, un campionatore ok, mixer. Insomma, macchinette, scusami, e basso. E cosa succede con questi Caveiras? Che appunto ci stanno con la serata Brasil, che è stata proprio creata un po' avendo ascoltato i Caveiras dal vivo all'Emerson recentemente nella serata con i Mombu, tra l'altro organizzata da Urzuoni. E l'altro gruppo erano gli ZA, che salutiamo. E quindi parlaci un po' di questi Caveiras, che poi mettiamo subito un pezzo che così fa capire molto meglio rispetto a mille parole. Cos'è? Allora, i Caveiras sono fondamentalmente tre persone che appunto hanno suonato insieme per una vita. Fondamentalmente questa seconda uscita di Urzuoni, che è il Cidade Occulta dei Caveiras, è un disco che in realtà avevamo in testa penso fin dal 2010-2011, e nasceva come disco di cover dei Tribunal Udo. Fondamentalmente dopo l'ultimo disco dei Tribunal Udo, che era del 2015, la formazione, che nel frattempo si era allargata a quattro, erano entrate altre due persone, il vecchio bassista Cristiano se n'era andato, la cosa poi si è un pochino sfaldata, perché chiaramente ognuno segue i suoi progetti. Francesco e Simone insieme hanno fondato i Sex Pizzul, e insomma ognuno insomma, il Tribunal Udo ci sono stati da parecchi anni, insomma. Tribunal Udo dal 2005, sì. E Lorenzo Maffucci, che era il bassista nell'ultima stagione dal vivo dei Tribunal Udo, insomma, segue i Solchi, ha il suo progetto solista Mangiacassette, suona con Alessandro Fiori, quindi ognuno poi ce n'ha mille, insomma, da seguire. Quindi fondamentalmente io e Simone ci siamo messi a registrare in solitudine queste formalmente cover, quantomeno, perché diciamo il titolo rimane quello, il testo rimane quello, però poi tutto il resto è stato pesantemente stravolto. Per chi conosce gli originali, poi via via se ne renderà conto. Non li abbiamo messi per paragonare la cosa stasera. Non li abbiamo messi, no. Sembra un funerale. Forse, sì. No, niente, quindi ce lo siamo insomma registrati in cantina, senza ben sapere cosa ne avremmo fatto. Una volta che comunque le tracce c'erano, anzitutto ci piacevano, cioè nel senso gli abbiamo cominciato ad attribuire una dignità forse anche superiore a quella che ci aspettavamo all'inizio, tanto che alla fine ne è scaturito un progetto parallelo, tanto più che quando è stato il momento di provarle dal vivo avevamo bisogno di qualcuno, perché chiaramente qui già i Tribunal Udo erano molto scarnificati, qui manca addirittura l'elemento della chitarra, quindi il basso è super importante. E Simone ha detto: ma perché non sentiamo Cristiano, che era il bassista originario poi della formazione di Tribunal Udo? L'abbiamo sentito, lui si è esaltato e quindi niente, buffo, sembra una bella favola che va a finire bene. Abbiamo cominciato a suonare in tre, si è ricreata una chimica pazzesca e quindi niente, nella mia testa la cosa ormai aveva una dignità tale che meritava un progetto parallelo in un certo senso, quindi visto è così appunto, è successo, è così è successo, sì. Intanto allora mettiamo un pezzo, poi ne ascolterate anche degli altri, dei Caveiras, tratto da Cidade Occulta, perché io avrei detto Cidade, scusatemi se nel corso della puntata non riesco a dire una parola giusta in portoghese. Comunque Cidade Occulta è il primo pezzo del CD, che si chiama Ponta de Lança Africano. We'll be right back. joga bola, joga bola, joga jogador. Joga, joga bola, joga bola, cocorocodô. Joga, joga bola, joga bola, joga jogador. Joga, joga bola, joga bola, cocorocodô. Questo era appunto il suono irriverente della prima traccia dei Caveiras. Si può dire irriverente, sì, c'è un po' di tutto, tra l'altro. Si può dire. Si può dire. Anche avevo letto queste cose su una descrizione, su un evento di un concerto vostro, e c'era anche maledizioni qui in banda, come cosa mi è piaciuta tanto. E quindi adesso, partendo un po' da questo pezzo, analizzeremo i vari aspetti di una musica brasiliana che non è la solita che siete abituati a ascoltare, un po' così in generale, come la classica bossa nova appunto come Brasil che abbiamo messo prima. E anche se quella è una versione se non altro divertente, che succede anche in un momento di un disco un po' particolare. E comunque, partendo dal titolo, che è Cidade Oculta, che proprio è un film, credo abbastanza conosciuto, di un regista brasiliano. Allora, sai che non so quanto sia conosciuto, è un film della metà degli anni Ottanta. Sì. Da queste parti penso sia conosciuto zero, purtroppo, perché è un bel film. Non so come mi ci sono trovato a un certo punto della mia vita a vedere questo film. Peraltro temo che non esista sottotitolato in nessuna lingua, quindi se non parlate il portoghese è difficile. Ahimè, è un po' difficile. È molto bello a livello visivo, quindi secondo me può meritare comunque scorrerlo. Sì, anche io l'ho visto un po' sul tubo, e era proprio un'ottantata come estetica. Sì, sì, è proprio una cosa come, cioè, sai, Walter Hill, che ne so, Friedkin, quella roba noir anni 80. Sì, noir un po' erotico, un po'. Sì. Beh, sì, c'è Carla Camurati, che è un bel pezzo di femmina, come si suol dire. Che fa la Dark Lady, Shirley Sombra, Bah, sì, è un film che a me ha affascinato molto proprio perché ha elementi che non immediatamente verrebbero, diciamo, associati al paese Brasile. Anzitutto è un film ambientato sempre in notturna nella città di San Paolo. Ora, nell'immaginario comune il Brasile è fondamentalmente Rio de Janeiro. Esatto. Mentre San Paolo è James Bond che va a Rio de Janeiro. Sì, sì, sì, ma tutto quello che più o meno, diciamo, l'uomo della strada sa del Brasile ha a che fare con Rio il più delle volte. Il carnevale, i coriandoli, i culi, tutte, sì, queste, sì, cose qua, la spiaggia. San Paolo è una città particolare perché è una giungla d'asfalto veramente, cioè è peggio di New York, di Los Angeles. E tu ne parli perché ci sei stato? Io ci sono stato a San Paolo, esatto. Sì, sì, sì. È bellissimo, è incredibile, cioè è forse il mio luogo preferito nel Brasile ed è chiaramente un po' la città dove anche si è sviluppato tutto l'underground brasiliano, è partito da lì. Si è formata negli anni 80, fino agli anni 70, primi anni 80, una scena punk molto florida nella città di San Paolo. Poi ascolteremo anche qualche brano. Esatto. E in generale un movimento underground molto forte, tra cui anche poi i registi che hanno creato quella che è conosciuta come la trilogia paulistana da Noite, la trilogia della notte di San Paolo. Sono tre film, uno è Cidade Occulta di Chico Botelho, uno è Adama Dushin Shanghai, la signora del cinema Shanghai, e poi c'è Anjos da Noite, Angeli della Notte, che è un film a tematica omosessuale. Ma sono stati un po' i film che negli anni 80 hanno svecchiato il cinema brasiliano, che ancora risentiva molto. Boh, ora io non vorrei entrare in robe troppo tecniche, però insomma i vari, no, Glauber Rocha, tutta quella corrente, l'equivalente del nostro neorealismo, non, okay, saprei come dire. Dando qualcosa di un po' più... Questi sono film probabilmente più leggeri, potremmo dire. Cioè, più freschi comunque. Sì, sì, con queste appunto tematiche da noir notturno che la città di San Paolo si presta molto bene a raffigurare, perché è veramente una giungla d'asfalto piena di luoghi loschi. E quindi ora mettiamo un pezzo tratto appunto da questo film Cidade Occulta, che la colonna sonora è di Arrigo Barnabé, che è anche il protagonista, e è uno dei, a quanto ho capito, uno dei maggiori esponenti di questa... almeno nel periodo del... Sì, sì, sì, di questo stile che era conosciuto come vanguardia paulista, l'avanguardia di San Paolo, e che appunto erano autori, che, cioè musicisti che combinavano la dodecafonia con la musica elettronica. Insomma, è stato un momento interessante, sicuramente abbastanza particolare e inedito a orecchie, okay, non pauliste, non brasiliane. Continueremo a parlare, intanto lo mettiamo. Questo è tratto dalla soundtrack, appunto, della colonna sonora, e è proprio il pezzo di Shirley Sombra, che dovrebbe essere appunto la Dark Lady della situazione. Dark Lady, buon ascolto. Shibu México ou Babilônia. Onde anda de lei sombra? Em México ou Babilônia. Onde anda de lei sombra? Em México ou Babilônia. Alguma passou amargo doce. Alguma passou amargo doce. Verte o vinho da vida, gota a gota. Vão-se as folhas da vida, uma a uma. Verte o vinho da vida, gota a gota. Vão-se as folhas da vida, uma a uma. Vem, vivamos mais que a vida. Vem, vivamos mais. Vem, vivamos mais que a vida. Vem, vivamos mais. Depunham também em pó. E sob o pó pousados. Oh, não! Pó! Seremos. Onde anda de lei sombra? Em México. Em México. Ou Babilônia. Ou Babilônia. Onde anda de lei sombra? Inexipu, ou Babilônia. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Sem cor, sem sol, sem sonho. Ed ecco il finale così divertito e allucinato di questo pezzo, appunto tratto da Cidade Occulta di Arrigo Barnabel, cioè quello che ha fatto la colonna sonora, il protagonista. E mi era venuto in mente, parlando di cinema brasiliano, tanti anni fa, sempre Filippo Panichi, che è venuto qui spesso a fare qualche trasmissione, mi dette da far vedere anche un film di questo tipo, che era assurdo, che si chiama, ora mi correggerai, dillo te, vai, Zedu Caixão, ok, che significa Joe della bara, giusto? O Coffin Joe, sì, vai, Tizio della bara. E era dietro questo nome bellissimo, che è proprio più bello in spagnolo, in portoghese, scusate, si cela José Mejica Marins, speriamo di averlo detto bene, che ha sempre voluto fare il regista fin da piccino, poi alla fine l'ha fatto, già a 18 anni aveva all'attivo già 80 cortometraggi, e comunque era fissato con l'horror, e quindi inventò questo personaggio che appunto si chiama Zedu Caixão, grazie, è pronto, Zedu Caixão, e per questo film, che si chiama in italiano A mezzanotte possederò la tua anima, questo è il titolo originale, viene annoverato tra come il primo film horror brasiliano, perché è del 63, quindi è un regista, insomma, che ha agito ancora molto prima degli anni 80. E questo personaggio era una sorta, era un becchino con le unghie lunghe, un cilindro molto alto e un mantello nero, insomma, nel film diventa abbastanza brutale, blasfemo, perché voleva un figlio da la compagna, che però non poteva fare figli, quindi la uccide e ci prova un'altra. Detto lievemente, che poi non so se c'è questo culto della discendenza in Brasile, abbia fatto una sorta di polemica al riguardo. Comunque, mettiamo il pezzo appunto tratto da A mezzanotte possederò la tua anima, che non so di chi è, ma mi piaceva tanto, mi piaceva parlare di lui perché è un grande regista. Se volete vedere i film, comunque, se cercate nel web li trovate. È vero, è vero. Ascoltatevi. Ecco, tu che sai il portoghese, di cosa parla il testo? Allora, ti dico la verità, non sono stato troppo attento, ho sentito solo l'ultima frase che era "Non tem coração, non ha cuore". Ok, e parlava di lui perché il ritornello era su "Tedo Caixão", che forse ho imparato a dire. Superiamo un po' il cinema e andiamo un po' su cose che mi ha fatto ascoltare Federico. E un paio, due o tre riguardano questa sorta, sempre è roba degli anni Ottanta, che appunto ha preso come ispirazione ai Caveiras, e sono tutti raccolti in un CD che poi in realtà, a quanto ho capito, sono usciti altri due, di un'etichetta tedesca indipendente che si chiama La Man Recordings, che si chiama Now Wave. Now ovviamente scritto in portoghese, Now con la diesi credo sia sopra, che vuol dire no, come No Wave, come la famosa compilation di band attirenti alla scena newyorkese degli anni Ottanta, che mi pare sia stata fatta da Brian Eno addirittura, che appunto ha insegnato a un po' al resto dell'Occidente quali erano i gruppi folli che agivano in America, ha dato esempio anche in Italia, così come in altri paesi del mondo, su come si può fare musica in un modo abbastanza aggressivo ora non mi viene il termine, comunque provocatorio, ecco, più che altro provocatorio. Questa Now Wave, appunto, noi abbiamo scelto dei pezzi. Vuoi dire qualcosa intanto su questa Now Wave brasiliana? Okay. Sì. Now Wave, che è un disco che è uscito nel 2004, è stato per me il diciamo punto d'inizio per l'esplorazione della cultura e della musica brasiliana, perché ovviamente si riagganciava a un linguaggio che per me in quel momento era, insomma, molto presente. Io in quell'anno lì, con Simone per l'appunto e Cristiano, mettevo in piedi Tribuna Ludo e cominciavamo a suonare post-punk, quindi rifacendoci ai vari Gang of Four, Pop Group, Public Image Limited, chi più ne ha più ne metta. Beh, questa era la versione brasiliana di tutto quel tipo di discorso, per cui chiaramente era una via d'accesso facile. Poi da lì chiaramente è partita un'esplorazione che ha portato a quello che abbiamo fatto oggi. Quindi dunque noi abbiamo fatto anche con Filippo delle puntate in cui si marcava l'importanza che spesso hanno delle compilation per farti arrivare un tipo di musica, un tipo di ricerca che difficilmente avresti potuto trovare. Invece trovi il CD o il vinile che ha X pezzi di X musicisti che sono, o band che sono, insomma, tra le più importanti, poi uno da lì può continuare a indagare. Intanto io direi di farvi ascoltare, forse, che dici, entrambi i pezzi, oppure... Vabbè, intanto mettiamo... I Black Future, no? I Black Future, che ho sbagliato, che... Eu Sou Rio. Ecco. Eu Sou Rio, sì, no, stavo cercando qualcosa sui Black Future, ma sì, che hanno fatto solo questo disco unico che è del 1988, e poi trovate appunto questo pezzo che dà il nome anche al disco, Eu Sou Rio, nella compilation Euro. No Wave. No Wave. Questo 4 minuti e 30. Questo più o meno ha fondato tutto. Thank you. serviette, Joãozinho 30, do Cartola, Sérgio Malandro, de todo mundo, de marginais, que assola a Lapa. Eu sou a Lapa, eu sou a Alasca, nesses lugares tem muita bicha. Eu sou o mar. Apoteose, Brizolão, o rio do desespero e da maldade, o rio da mediocridade, o rio da falta de sonho, o rio. Questi erano i Black Future e Eu Sou Rio, appunto l'unico disco che hanno fatto, lo potete trovare anche su Discogs se vi interessa vedere un po' l'album in sé, insomma. E, ci ho trovato molto dei Caveiras dentro, non a caso me l'hai fatti ascoltare, insomma. E, il brano successivo invece si chiama As Mercenarias. Tutte donne, credo che forse siano state anche femministe, non lo so, credo che sia stata una cosa un po' Riot, perché gli anni sono quelli, e il brano si chiama Polizia, intanto lo ascoltiamo subitissimo. As Mercenarias. Polizia. Questo l'ho imparato dai Sepoltura. Polizia però. Polizia. L'accento. Va bene, vado via. Ti lascio il microfono da solo. E, gli dicevo mentre si ascoltava il brano di un minuto secco che siamo in post-punk piano come sonorità, però il linguaggio, il ritmo del linguaggio ti crea comunque un effetto differente da quello che sei uditivamente abituato a ascoltare. Tant'è che ora questo pezzo qui non è nell'EP, però noi dal vivo la facciamo questa, chiaramente riarrangiata, e proprio dal, diciamo, il ritmo della parola, che è polizia vem, polizia va, polizia vem, polizia va, è sambistico, quindi l'abbiamo, esatto, riarrangiata in una chiave appunto molto più molto più percussiva, ma c'era già dentro questa cosa. Esatto, esatto. E, visto che ci sei, che ne parlavi che dal vivo presto la farete, gli appuntamenti della tua band, i Caveiras dal vivo, prossimamente, insomma. Allora, guarda, sto cercando qualcosa in realtà nell'estivo, ma è sempre tutto un po' in forze, perché questa roba qui non è proprio da musica all'aperto il più delle volte. Da settembre ricominceremo con certezza a fare qualche cosa, dovremmo okay. essere allora, in zona. Ho saputo da pochi giorni che il 29 settembre suoneremo a Pistoia. Ok. E poi dovremmo suonare al Santa Valvola Fest. Ale, che è un festival molto carino di ragazzi che si sbattono molto per queste esatto. cose. E, ovviamente ritorniamo sempre sui Caveiras a breve. Mettiamo un altro brano che mi hai proposto di questi Patife Band, che sono, credo, sempre... Lui è Paolo Barnabè, il fratello di Arrigo Barnabè. Ecco, perché non ho trovato praticamente niente come... Patife Band, che Patife vuol dire, insomma, piccolo criminale, no? Questo... Sono un gruppo che anche loro in un certo senso emergono dall'avanguardia paulista, quindi hanno tutto questo elemento avanguardista, intellettuale, ritmiche, comunque scansioni in tempi dispari e via dicendo, però con tutta l'energia del punk che era la musica di quel periodo e chiaramente le influenze del loro paese, quindi noterai che c'è una percussività molto accentuata, fischietti. Un po' come quasi tutto quello che viene ascoltato stasera in realtà, sì. Quasi. Vabbè, li mettiamo quindi la banda del delinquentello. Esatto. Una roba del genere. E... è tratto dal loro primo album, ne hanno fatti solo due. Il primo album, che è omonimo, è self-titled praticamente, è del 1985. Ma qui sì che ci avesse levato, porrada! Parasita, indescrivelmente sujo, irrespondivelmente parasita, indescrivelmente sujo, sujo, sujo, sujo. Patife Band, mi ricordavano anche, mi ricordano un po', forse non so se sto dicendo una cavolata, ma anche i Red Hot Chili Pepper di quegli anni lì, che erano un pochino più selvaggi, cioè ci ritrovo comunque dei collegamenti tra una musica che è quasi crossover, insomma, che poi il post-punk a un certo punto diventò post crossover negli anni quando morì e così via. E ecco, dopo avervi fatto ascoltare un po' queste queste secondo me rarità, perché non credo che chi ci sta ascoltando le abbia mai sentite, a parte proprio chi è fissato con un certo tipo di musica brasiliana, vi faccio ascoltare un altro pezzo tratto dal disco, l'unico per ora, de Caveiras, che si chiama Cidade Oculta. Sì, il brano è il brano si chiama Expresso 2222, originariamente scritta da Gilberto Gil, ma okay, di Gilberto Gil è rimasto ben poco, a parte il testo. Senti, una curiosità, all'interno del CD ci sono delle facce di, credo, arrestati. Lui è un bandito da luz vermelha. Okay. Guarda, possiamo dire due parole su tutta l'estetica dei Caveiras. Fondamentalmente... Vai. Estetica che si è creata a partire dai tre pezzi che abbiamo ascoltato e che poi sconfina nel cinema e in un sacco di altre cose, è l'estetica dei marginali. Fondamentalmente i tre pezzi che abbiamo sentito, il primo, Black Future, che si chiama Io sono Rio, è un'analisi un po' ironica della città di Rio al fine degli anni Ottanta, cioè lui ti elenca prima, sai, tutte le cose che anche a livello turistico sono le più conosciute, sono il Rio, sono la spiaggia, sono la capirigna al sole, la Madonna, sono le sfilate di samba e via dicendo, e poi comincia a dire sono Rio, sono... la città che sono le favelas che puzzano di spazzatura, sono la città dei sogni infranti, eccetera eccetera. Il brano delle mercenarias, Polizia, è chiaramente un atto d'accusa contro le vessazioni della polizia militare. Ora, è un brano dell'86, considera che la dittatura in Brasile è finita nell'85, quindi immaginati cosa potesse essere il controllo poliziesco nelle città brasiliane, per i punk poi. Questo brano dei Patife Band, per l'appunto, dice: non ho mai conosciuto nessuno che abbia preso un sacco di botte, tutte le mie conoscenze sono sempre stati dei campioni in tutto quello che hanno fatto, e io invece, che sono sempre un irresponsabile, che sono un porco, che sono sporco, che non so fare niente. Quindi c'è un certo senso un filo conduttore che è questa estetica del marginale, e che è un po' quello che abbiamo anche provato a rendere in termini visivi all'interno del disco. Resto uno slogan dei Tropicalisti era Seja marginal, seja eroe. Sì, emarginato, sì... sia un eroe, perché chiaramente questa è una faccia del Brasile di cui probabilmente si sa, ma insomma, che non è quella che fa più piacere guardare, quella degli ultimi, no? Certo, la persona che tu notavi all'interno del CD è Bandito da Luz Vermelha, che è un film del 68 di Rogério Sganzerla, che è un po' la versione romanzata di un fatto di cronaca veramente accaduta, cioè di questo bandito della luce rossa, che era questo criminale di San Paolo, che rapinava le ville dei ricchi, stuprava anche le occupanti delle ville, insomma era una specie di Robin Hood che rubava ai ricchi per dare a se stesso, come corona. Ok. Che alla fine nella realtà è stato catturato e messo in prigione. Nel film lui chiaramente diventa, no, una figura eroica di resistenza, anche perché nel 68 eravamo in piena dittatura militare, quindi anche lì immaginati un po' cosa doveva essere, e alla fine praticamente, piuttosto che essere catturato, si suicida, quindi insomma un antieroe, per così dire. Ah, penso che hai spiegato tutto molto bene, anche appunto la carica politico-sociale che hanno questi brani. Intanto ci ascoltiamo questo Expresso 2222 di Caveiras, che è appunto il gruppo suo, che per ora è un disco unico, ma presto usciranno, credo, delle novità. Thank you. Caveiras con Expresso dos, giusto? E, appunto, che dicevi che era un brano originariamente di Gilberto Gil. E, ecco, abbiamo detto Gilberto Gil, in realtà non lo mettiamo stasera, però faceva parte di una grossa scena che è proprio stata inventata in Brasile, scena che suona un po' strano, insomma, che si chiama, o che è stata chiamata, tropicalismo. Ci spieghi un po' qualcosa sul tropicalismo e sicuramente ne sai meglio tu di me. Ah, dunque, sarebbe un discorso amplissimo, ma basterà dire che tropicalismo fu un'idea di Gilberto Gil come ispiratore musicale e Caetano Veloso come ispiratore concettuale, che era un tentativo di internazionalizzare la musica brasiliana del periodo. Fondamentalmente alla metà degli anni 60 avevamo in Brasile da una parte musica molto tradizionale, i vari samba canzone, bossa nova, la musica popolare brasileira tipo João Gilberto, eccetera eccetera, e poi avevi le influenze internazionali che però non venivano recepite, erano molto campanilisti i brasiliani, gli autori brasiliani. E Caetano decise che bisognava invece far penetrare quello che succedeva fuori all'interno della musica brasiliana. Anzi, lui diceva proprio: dobbiamo mangiare quello, dobbiamo cannibalizzare quello che viene dall'esterno. Quindi rifacendosi ai poeti concretisti, al manifesto antropofago del 28 di De Andragi, e quindi bisognava fagocitare tutto quello che veniva dall'esterno e risputarlo in una miscela nuova. All'epoca quello che c'era di internazionale dall'esterno erano i Beatles, Jimi Hendrix, esatto, e questa roba qui, e quindi il tropicalismo è stato un mix di queste influenze psichedeliche e di musica più tradizionalmente brasiliana. Il primo pezzo che vi facciamo ascoltare è proprio di Caetano Veloso, che si chiama Triste Baia, da Tranza, che è un album del 1972. E tra l'altro anche qui c'è da dire che Caetano Veloso era, essendo credo il più noto cantautore brasiliano, come tutti i cantautori di valore, i suoi testi avevano un'importanza fondamentale oltre che alla musica. Appunto, essendo sotto dittatura, ha passato pure dei guai seri, quindi oltre a una forma differente, c'è anche una sostanza di contenuti, di parole testuali molto molto forte nell'opera, anche a parte sua, ma anche nel tropicalismo in generale. Non tutto, ma insomma, questo è un esempio. Vi ricordo che Caetano Veloso è stato pure in carcere per vario tempo, perché insomma è in esilio. Questo disco l'ha registrato a Londra, perché ha vissuto fuori dal Brasile tanti anni. Tanti anni. E adesso lo facciamo ascoltare, è un pezzo molto bello, così come sono bellissime tante cose che ha fatto Caetano Veloso, che forse è l'artista stasera che più conoscete. Ora non so questo brano, comunque sicuramente anche di nome non è una cosa nuova. Buon ascolto. Triste Bahia, oh, quando è semelhante. Triste Bahia, oh, quão de semelhante. Estás, estou, do nosso antigo estado. Pobre te vejo a ti, tu a me empenhado. Rica te vejo eu já, tua me abundante. Triste Bahia, ó, quão de semelhante. A ti tocou-te a máquina mercante, quem tua larga barra tem entrado. A mim vem me trocando e tem trocado, tanto negócio e tanto negociante. Triste, ó, quão de semelhante. Triste, Bastinha já foi à África, Bastinha já foi à África, pra mostrar a capoeira do Brasil. Eu já vivo tão cansado de viver aqui na terra. Minha mãe, eu vou pra lua, eu mais a minha mulher. Vamos fazer um ranchinho todo feito de sapé. Minha mãe, eu vou pra lua, e seja o que Deus quiser.

bandeira branca enfiada tão forte. Bandeira branca enfiada tão forte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada tão forte. Bandeira branca enfiada tão forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Trago no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca, bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Traz no peito a estrela do norte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Traz no peito a estrela do norte. Traz no peito a estrela do norte. Bandeira branca. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca enfiada no pau forte. Bandeira branca. Bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira, bandeira. E questo era Caetano Veloso con Triste Bahia. Quando appunto il canto torato è spesso e non frivolo, come purtroppo succede in questi ultimi anni per la gran parte degli stati, ecco. Mi dicevi mentre si ascoltava che questo brano in realtà è molto particolare, perché ricalca un certo tipo di musica tradizionale brasiliana. Sì, sì. Questo è un pezzo che è tratto da un album che si chiama Tranza, che lui appunto ha composto e registrato mentre era in esilio a Londra. E come spesso succede, quando poi uno è lontano dal proprio paese, no? Si attacca invece ancora di più alle proprie tradizioni. E infatti è un disco dove c'è tanto di musica tradizionale brasiliana. Questo in particolare... diciamo si rifà un po' alla Fauché, che è uno stile, quello della capoeira, per intendersi, quando ci sono le rodas di capoeira, tutta sta gente che si mena, ma in realtà non sembra che si meni, perché sembra quasi che un balletto, ballino, sì. No? E intorno c'è di solito sempre un tipo col berimbau e gente con le percussioni, e fanno questa roba qui che si chiama la Fauché. Ma ti chiedo, è una forma quasi musicalmente lussuosa, c'è cioè una versione un po' lussuosa? No, è molto, in realtà è molto simile, cioè c'è il basso elettrico in più, però è okay, molto simile a quello che poi è una musica che è fatta appunto di Fauché, che è il nome di uno strumento, è quella cosa di, è lo shaker fondamentalmente, okay. È una specie di grossa maracas con quella retina sopra, okay. Piena di semi. Che viene agitata. Che mi sa, a percussioni credo che non gli manchino, avranno 300 miliardi di tipi. Fondamentalmente i tre strumenti principali sono questo Fauché, la gogo, che è quel campanaccio fatto a, diciamo che ha due, okay, sì. Due poli, sì, sì. Ora mi sfugge il nome del tamburo, però diciamo le congas per capirsi. Il campanaccio a due poli. Sì, c'ha due campanacci, cioè sì, legati ma da nel un... senso ha delle note, diverse. Precise, oppure cambiano a seconda? Allora, questo non te lo so dire, dovremmo forse parlarne con Simone se fosse okay. Qui, che è l'esperto del reparto percussivo. Comunque questi tre strumenti sono un po' quelli tipici del genere, okay. E fondamentalmente sono quelli che poi sentiamo in questo pezzo, che anche a livello testuale ricalca un po' le formule fisse di una dei vari canti che si fanno durante la capoeira. E continuando a parlare di tropicalismo, facendovi ascoltare qualche esempio, si diceva prima che appunto era qualcosa in cui appunto i brasiliani di quel periodo, già dagli anni 60, dicevano ok, facciamo entrare qualcosa dal resto del mondo, ce ne appropriamo e anche lo ribaltiamo e ci facciamo una cosa nostra. Questo è l'esempio un esempio che cioè una cosa che potete capire più che un esempio dal prossimo gruppo e brano che mettiamo, che sono gli Os Mutantes. Mi viene a ridere perché mi ricordo che io li conobbi da un negozietto di quando abitavo in un paesino sul mare, e questo bellissimo, poi tra l'altro, negozio di musica, quindi aveva ovviamente un sacco di vinili e tutto quanto, mi disse: guarda, devi prenderti questi, gli Os Mutantes. Ma che fa? Una roba basilana, ma sono fuori di testa, a te ti piacciono, fece ascoltare due o tre cose. Mi ricordo un pezzo, la ritmica che di solito potevi fare con un cembalo o con qualcosa, era fatto con una bomboletta spray, tipo pss, pss, pss. E, insomma, mi piacquero, quella era una raccolta, e quindi ci stavano benissimo anche loro, infatti, tropicalismo, e anche in chiave dadaista e irriverente, insomma, questi Os Mutantes, legati appunto anche al rock psichedelico tantissimo. E il brano in questione è tratto da, ci provo, A Divina Commedia o Ando Meio Deslingado? Ando Meio Deslingado, quello lì. Che è del 1970, per cui erano comunque, insomma, in quegli anni loro c'erano, diciamo. Era già il terzo album che usciva per la Polydor, stranamente, insomma, così come praticamente tutta la loro opera. E quindi ci troverete un sacco di legami appunto con Beatles e faccende varie. Poi dire Beatles un po' troppo facile, però ecco, diciamo, insomma, anche con un certo tipo di psichedelia pop. E sotto forma di opera, perché questo disco è fatto anche un po' così, e il brano non si poteva altro che chiamare Ave Lucifer, e quindi ve lo facciamo ascoltare. A dopo. As maçãs envolvem os corpos nus nesse rio que corre em veias mansas dentro de mim. Anjos e arcanjos pousam neste Éden infernal. E a flecha do selvagem matou mil aves. Quieta, a serpente se enrola nos seus pés. É Lúcifer da floresta que tenta me abraçar. Vem, amor, que um paraíso num abraço amigo sorrirá pra nós sem ninguém nos ver. Prometo, meu amor macio, como uma flor cheia de mel, pra te embriagar sem ninguém nos ver. Festas e flores, tragam corpos e dores, tragam incensos odores, mas tragam Lúcifer pra mim em uma bandeja pra mim. E c'era anche un po' di tutto, oltre anche a qualcosa di operetta. C'era anche, si diceva prima, il theremin. Mi dicevi che la cantante poi è diventata una super pop star. Sì, sì. Rita Lee. E, continuando, perché bisogna continuare a arrivare a una fine prima o poi, mi dicevi di Tom Zeck, che è una roccia all'interno del tropicalismo, proprio mi scrivesti, che in termini di Avant è un po' il pioniere in Brasile, punto. Tom Zé, diciamo, subito dopo la compilation Now Wave, l'ulteriore gancio per accedere alla cultura brasiliana è stato Tom Zé, perché lui trascende anche il tropicalismo come fenomeno, è proprio un avanguardista di natura, ha fatto delle musiche. Quindi un caso a parte. È sicuramente una mosca bianca all'interno della musica del periodo. E tant'è che è stato cagato molto poco negli anni in cui era attivo dagli stessi brasiliani, e fu riscoperto, è famosa, no, questa storia, che fu riscoperto da David Byrne, quando, sai che David Byrne a un certo punto ci ha avuto la gli ha presa la botta per il Brasile. Lui andò in realtà su un sacco di world music, non solo sul Brasile. Lui, fondamentalmente, a quanto ne so io, successe che lui andò in Brasile e cercava scartabellando, no, nei negozi di vinili, cercava dei dischi di samba, perché si voleva documentare, e a un certo punto trova questo disco che si chiama Estudando Samba di Tom Zé, che quindi c'è la parola samba, però la copertina è completamente bianca e c'è un filo spinato sopra. Quindi c'è una roba, no, che poi ho visto sulla discografia, che ha fatto vari, tra virgolette, studi. Studando Pagodi, studando Bossa, Però insomma, Studando Samba è questo album del 75 che è incredibile, da cui poi è tratto, no, il brano che sentiremo. Che si chiama Toc. Toc. E David Byrne effettivamente l'ha sentito e ha detto, ma che cazzo è questa roba? E da lì ha riscoperto il personaggio Tom Zé, che se non fosse stato per David Byrne, Tom Zé stava già lavorando alla pompa di benzina del nipote in quegli anni. Insomma, rischiava veramente di finire nel dimenticatoio. Così come è successo per tanti. Certo. E guarda, ora lo sentiremo questo brano, ma è un classico esempio di quello che poi era il suo metodo compositivo. Ci sono anche su YouTube dei filmati, insomma, si possono trovare abbastanza facilmente. Lui aveva già nei primi 70 inventato delle sorte di campionatori. In questo brano tu sentirai tutta una serie di cose, tipo trombe, rumori vari, gente che parla, sono tutte cose azionate da dei macchinari, dei campionatori ante litteram che lui. Ma quindi era anche tape music, sicuramente, visto che era comunque gli anni 70. Sì, ora tecnicamente non so esattamente cosa facesse, però c'è questo filmato che trovi su YouTube in cui lui praticamente fa da direttore d'orchestra e dirige questo brano, quindi c'è il bassista che fa una nota, perché poi lui ha questo metodo compositivo in cui tutto è molto, raramente suona tutto insieme, no? Senti tutte le componenti del pezzo suddivise, quindi lui gli dà un gesto, il bassista fa la nota, poi il chitarrista fa la nota, poi il coro fa e poi lui preme un bottone e parte, che ne so, il campionamento di una tromba. Particolare, molto particolare. Ok, e se vi ha incuriosito la descrizione, adesso vi sentite un brano di Tom Zé, si chiama il brano in questione Toc, tratto appunto da Estudiando Samba del 1976 o forse 75, insomma, a seconda un po' delle uscite. Ecco, Tom Zé con questo talk, appunto, era un brano parecchio pazzo e essendo è del 75, ma è parecchio moderno come concetto, come graffio, come non dico che è un brano glitch, però lo dicevo prima a Federico, che sembra, mi ricordava gli Starfuckers, tipo, per qualche strano motivo astruso, però tutto questo spezzettamento preciso, insomma, effettivamente sì, è roba buona. vi lascio un po' questa parte sul tropicalismo con un altro erede un po' di questo modo di fare musica brasiliano, che è Arthur Lindsay. E lui in realtà è americano, ma ha vissuto per tantissimi anni già da piccolo in Brasile, per cui fece proprio tesoro di questo modo di suonare. E tra l'altro poi quando tornò in America nel fine 70, anni 80, diventò conosciuto con i DNA, che erano un gruppo appunto che era anche nella compilation No Wave, famosissima. Ebbe il piacere anche di vederlo dal vivo. E comunque usa la bossa nova e altri ritmi brasiliani in un modo particolare, a volte ci mette le chitarre distorte o elettroniche, qui si parla anche un po' dopo, già degli anni 90. E appunto il pezzo che vi metto in realtà è un brano dal vivo, perché ebbe il piacere di vederlo dal vivo a Roma un sacco d'anni fa con un super gruppo, no, non mi ricordo chi erano, ma suonavano benissimo, e a differenza degli album ho notato che spiccava più una vena un pochino più distorta e noise, quindi me lo ricordo più così che come su disco. Con la sua Danelectro 12 corde. Con la Danelectro sempre, e questi suoni taglientissimi. Il brano è un brano dal vivo in un concertone, che non facciamo pubblicità a questi concertoni, però è insieme a, oltre al gruppo, con questo David Moraes, che è un chitarrista brasiliano che non conosco, ma ho letto, insomma, sono andato a vedere un po' la discografia, ha fatto un sacco di roba, quindi non è il primo sconosciuto sicuramente. Il brano si chiama Simply R, e questo è un live del 1998, e così chiudiamo un po' questa parte sul tropicalismo. Arthur Lindsay. Lack of all expression, find it not at all distressing. Life was tailor-made for our refreshment, though life is rarely lacking dust, covered with details and fuss. You are one of those creatures who simply are, simply beyond why. Simple as okay. Yeah. Let me provide, woo, whatever bravery is required, whatever necessary fraction, but nothing more than it takes to provoke a reaction. Daydream your way around the room through intersections and aggressions. You are one of those creatures who simply are. Simply beyond why. Simple as okay. Yeah. enough attention to be fair. Woo! I need to get up from your chair. Shower me with evidence of pleasant disposition. Taking your way around the room. Walk right through frowns and gloom. You are one of those creatures who simply are. Uh-huh. Simply beyond wise. Aye, aye. Simple as okay. Simply beyond why, aye, aye, simple as okay, yeah. Lindsay con Devi Morales dal vivo. E ci fermiamo qui col tropicalismo, perché insomma penso che forse avete un po' capito la questione, che è anche un po' ampia, vi ricordo di appunto musica brasiliana altra, diciamo, e legato appunto a Suoni, che è l'etichetta di Federico Fregrasso, che qui stasera 8 Hertz su Radio Wombat vi presentiamo la sua prima uscita, che è Lampreda. Vai, vuoi che dica due parole su Lampreda? Purtroppo non c'è. Sì, cioè, beh, Lampreda, allora, è... aspetta, di delle cose tue che potresti dire solo te, ecco. Beh, no, io ti dico che Lampreda è il progetto con cui è nata la Ursuoni, nel senso che quando insomma ho deciso di dare inizio a tutta questa faccenda, Simone aveva pronto un disco che si era registrato da solo, un disco di sola batteria, e quindi abbiamo deciso che sarebbe stato quello il primo passo, ed è stata infatti la prima pubblicazione, e tipo, quindi cioè, è una cosa che mi rimarrà sempre nel cuore. Tra l'altro è stato anche il primo evento organizzato dalla UR, fu una sonorizzazione di Lampreda che appunto sonorizzava questo documentario che si chiama Le Maître Fou, che è un documentario sui riti di possessione Auka in Ghana. E molto molto bello, cioè fu una cosa molto viscerale, molto toccante. Dove è stato fatto? Alla Polveriera Spazio Comune, era il febbraio del 2017, diciamo che lì è stato il punto di inizio della UR. E, beh, che ti devo dire, io quando ho visto questa cosa, io con Simone ci suono da sempre. Quindi sei di parte, però appunto sono di parte, ma cioè, nel senso, è veramente stato un commilitone in questa battaglia che è, no, la musica underground, perché di quello poi si parla, per tutti i sacrifici che comunque comporta. Quando io ho visto Simone che faceva Lampreda, cioè che faceva questo concerto da solo, mi sono commosso, perché ho visto la parte di lui più vera, che era una cosa in cui io non avevo niente a che fare. era una cosa solo sua. E, sai, e lì è uscito, possono dare grosse sorprese. Sì, no, e lì è uscito lui, tutto lui, quello che è. Poi, cioè, non l'unica, voglio dire, lui ha mille progetti, e in ognuno di questi progetti c'è una parte di lui, però non lo so, a me mi è sembrato in quel momento che scaturisse tutto quello che è lui. Io un po' pianto, devo dire, quando l'ho visto suonare in questa da prima solo, occasione. Ha detto, cazzo, si è liberato magari. Sì, sì, sì, è stato molto bello. Quindi è un disco che, insomma, ci rimarrò sempre, sempre legato. Allora, intanto facciamo così. Mettiamo il primo pezzo, che è La Fiesta del Caracol, che è il primo pezzo del disco, che si chiama Zero. Giusto? Lampreda numero zero. Che è anche numero zero, che è anche il, no, vabbè, il numero uno di Ur Sound, diciamo, Ur Suoni, scusa. E mettiamo questo, che ha anche un video ufficiale, diciamo, sul tubo. Esatto. E, ma intanto ascoltiamo e poi continuiamo a parlare di lui. Preda numero zero, il primo, l'opening track del disco. E, ora ve ne mettiamo un altro, però ecco, diciamo che lui suona è un solo drum, cioè ha solo la batteria con un mixerino accanto a lui, la diciamo brutale, no? Sì, sì. Con, tutto quello che sentite è provocato da suoni di batteria. Suoni di batteria filtrati un po' da un paio di effetti, ma tutta roba povera. Molto lo-fi, lo-fi. Un amplificatore che lui tiene a dire che è rotto, perché così è rotto, suona peggio, quindi a seconda dei punti di vista può suonare meglio. E poi mi ricordo che aveva anche per le basse, che avete sentito anche in questo pezzo. C'è un bidone. Una sorta di bottiglione di plastica, sai, del vinaccio quello. No, è un bottiglione dell'acqua, quello che nei distributori, sai, dove. Ma mi sembrava di plastica, invece è di plastica, sì, sì, sì, no, di quindi plastica. Che ti danno anche il fiascone di vino in plastica, di quelli che costano 0 lire e ti ammazzano il cervello e il fegato. Comunque, quello lì messo posizionato, dovete andare a vedere se sopra ci sei. Ci sei. Non lo volevo dire, però insomma, è anche bello da vedere dal vivo. E, infatti, lui mi disse una volta: "No, ma che palle, ma io non, tutte le volte devo spiegare alle persone, ma come fai a registrare? No, ma sei te da solo, ma come fai a fare sti suoni?" No, ma guarda, ve lo scrivo. Infatti l'ha scritto da qualche parte, mi sa, tipo come li fa, così almeno basta. Sul disco, l'ha scritto sul disco. Sul disco. E quindi ora, comunque, continuiamo con Lampreda, appunto la prima produzione di Ur. Mettendo un brano che è il mio preferito dell'album, che si chiama Il fiume Arnold, che io stupidamente ho chiesto a Federico: "Ma il fiume Arnold perché? Ma sta cazzo, stai a Firenze?" Vabbè, Arno più L di romanzato Arnold, perché da piccoli vedevamo i telefilm di Arnold, sì. No, non lo so, questo me lo io. No, io li vedevo, forse li vedeva anche lui, però sicuramente sì. Non so quanti anni ha. Non so se vedeva Arno. Sì, ma è mio coetaneo. Quindi? Siamo sui 36-37. Ah, lo vedeva. Sì, lo vedeva, come no, credo, sono sicuro. Tutti, la famiglia Robinson, Annessi e Connessi. Non lo so se sia c'era anche il brano degli Elettrocapra, Kimberly, che era dedicato a questa dai. No, non so se sia questa la ragione. Comunque, Arnold, il fiume Arnold è sicuramente è l'Arno. Perché Simone vive peraltro molto vicino all'Arno e ogni tanto si va a sedere sulla diga, lui sta insomma zona Via delle Casine, quindi esce, va sulla riva del fiume, c'è una diga a quell'altezza, si mette lì ad ascoltare il rumore dell'acqua e questa è stata l'ispirazione del brano. Ok, e prega affinché l'Arno non trabocchi. Non tracimi. Comunque, questo è un pezzo bellissimo di Lampreda che si chiama Il fiume Arnold. Thank you. Lampreda con il fiume Arnold, che secondo me è il pezzo più bello del disco suo, perché ci ritrovo appunto, parlava prima con Federico Fragrasso, ci ritrovo anche un po' di minimalismo, si diceva un po' di Steve Reich anche, a quanto pare infatti piace anche a Lampreda. Confermo. Tipo, intanto ti volevo chiedere appunto anche gli appuntamenti live di Lampreda. Allora, guarda, mi sono fatto dire, ora a giugno Lampreda, Simone farà un mini tour insieme a Tonto, che è un altro terrorista sonoro di drum solo, di solo batteria, esatto. Loro si conobbero, se non erro, l'anno scorso al Resonance, che questo locale a Loreto, che organizzò una serata di quattro progetti solo batteria. Si sono trovati bene, li abbiamo anche fatti suonare con Ursuoni a marzo alla Polveriera, e insomma è nata un'amicizia ed è nata anche un sodalizio artistico, tant'è che proprio in quell'occasione a marzo alla Polveriera hanno fatto una performance a due che abbiamo fortunatamente registrato, quindi in qualche modo a un certo punto pubblicheremo anche questa. L'entità conosciuta come Lampredonto, che sembra il nome di un dinosauro. Comunque faranno appunto qualche data insieme ora a fine giugno, saranno il 25 a Macerata, il 28 giugno a Iesi e il 29 giugno a Bologna al Micasa. Quindi se siete in uno di questi luoghi, cercate i concerti di Lampreda e Tonto, perché sicuramente è qualcosa che merita vedere. E invece, parlando delle future release di UR? Allora, Simone ha in caldo un nuovo album che, insomma, se gli fa piacere pubblicarlo con UR, lo pubblichiamo volentieri. un album che io non darò troppe anticipazioni, ma insomma è un concept dedicato all'anfiteatro delle Cascine, che per chi è nella nostra fascia d'età è stato un luogo mitico che ha, insomma, teatro di diverse avventure. Quindi c'è del nuovo materiale suo, c'è anche l'idea per i Caveiras di registrare qualche nuovo brano, perché ora, come dire, Sidagio Occulta è uscito ora il 25 maggio, ma per noi, come sempre in questi casi, è già vecchio, certo, in realtà queste persone non lo sanno, brani, però cioè, li hanno già rosticati da diverso tempo, e nel frattempo abbiamo fatto roba nuova, quindi magari quest'estate potrebbe essere l'occasione per registrare materiale nuovo che si spera potremo pubblicare anno prossimo. E poi soprattutto ci sarà in autunno la pubblicazione di un disco a cui io tengo immensamente, che è un disco che fu registrato molti anni fa da parte di una formazione fiorentina molto conosciuta all'epoca e che, insomma, probabilmente molti ancora se la ricordano. Non dirò niente. Creo l'hype. È un album che è rimasto a prendere polvere per quasi 10 anni. Assicurati che si senta ancora bene. Si sente benissimo. Me lo sono sparato sull'impianto di tempo reale dove lavoro. È una bomba. Non è ancora stato masterizzato e già pompa tantissimo. Oltretutto è assolutamente non datato, per il che ci porta a concludere che probabilmente all'epoca era molto avanti sui tempi, ed è assolutamente nello stile di tutto il materiale che pubblichiamo con la UR, quindi sarà qualcosa di estremamente ritmico, però non vi dico di più, rimanete sintonizzati, chi li conosce già lo sa. E se non li conoscete sarà l'occasione per scoprirli, ma è un disco incredibile per quanto mi riguarda. Allora, grazie per tutte queste info. Leggendo un po' le cose che ho trovato scritte su Caveiras, probabilmente le avete scritte voi o qualcuno che insomma cura molto la vostra causa, Ho letto che nascete spiritualmente durante un pellegrinaggio a Rosinda. Rosigna, scusatemi, vi avevo già avvertito. E dopo aver osservato due ragazzini improvvisare una batucada, che è un sottostile della samba molto percussivo, sempre appunto brasiliano, ma influenzato anche dalla cultura africana. Avete capito, questi ragazzini suonavano un secchio, un bidone in realtà, quindi roba poverissima. Avete capito che in realtà la distanza fra Rio de Janeiro e la Berlino degli Sturzen de Neubauten è solo apparentemente incolmabile. Per cui all'interno della puntata facciamo ascoltare un pezzo degli Sturzende, e più che altro dei primissimi Sturzende, di Collapse, che credo sia il primissimo LP. Prima c'erano delle cassettine, il disco è degli anni 80, precisamente dell'81. Collapse forse è il disco più, cioè è quello marcatamente industrial. Estremo. Proprio suonato con robaccia, con strumenti come i bambini della favela, con roba che facevano rumori, come carrelli della spesa, motoseghe, insomma così. E quindi mettiamo il primo pezzo di Collapse, che si chiama Tanz Debil, che ha creato un po' una sorta di mito degli Sturzen de Neubauten. Stell dich tot. Stell dich tot. Ja. Stell dich tot. Ja. Everybody win. Du hast die Knalle als ich. Yeah. grandi Sturzende, noi Bauten, e siamo arrivati alla fine. È una fine che non è solo la fine della puntata, ma anche delle trasmissioni di questa stagione di 8 Hertz. Ringrazio tantissimo chi l'ha ascoltata, chi l'ha sempre seguita, anche chi la seguirà. E per cui tutto quello che ascolterete in radio dalla prossima settimana in poi sono tutti i podcast che via via ho fatto, credo che metterò più che altro quelli di quest'anno, ve li farò riascoltare, tanto non credo che, anzi spero che chi non li ha ascoltati appunto abbia l'occasione di conoscere un po' di cosa si parla su 8 Hertz, cioè di tantissime cose attinenti alla musica più che altro sperimentale, ma insomma anche a seconda delle puntate, anche di cose neuronali che seguono la scia dell'ipnotismo. Per cui questa è l'ultima, poi solo repliche, quindi occhio quando ci sono eventi e vengono pronunciati tipo stasera in X, non è vero, per cui informatevi bene. E vi lasciamo con l'ultimo pezzo, che è anche l'ultimo pezzo dell'album Cidade Occulta. Cidade Occulta de Caveiras. È un pezzo abbastanza lungo, tanto a me piacciono le cose lunghe, e appunto vi lasciamo così con questo tribalismo del brano Está Saúdo Correio do Brás, che vuol dire? Stazione dell'ufficio postale di Brás, che è un quartiere alla periferia di San Paolo. Ok, è una batucada oppure... Ma è un... anche questo è un brano... Nasce originariamente come brano di Tom Zé. Anche qui molto, insomma, rimaneggiato, rielaborato. Nel nostro caso è diventato... appunto molto simile a certi pezzi di musica tradizionale, come tipo quello di Caetano Veloso che abbiamo sentito prima, quindi percussioni infinite e recitazione mantrica sopra. Poi in realtà parla di un postino, cioè nel senso della vita di un postino, per cui però se non comprendi le parole sembra qualcosa di estremamente più fascinoso e mistico. Ok, vi lasciamo con questo pezzo lunghetto che è anche la chiusura del disco e anche la chiusura della stagione di 8 Hertz. Ricordo che i podcast li potete comunque ascoltare su wombat.noblogs.org, e poi c'è la mail che è la posta wombat@insiberia.net. potete trovare delle news su Twitter e su Facebook, ma guardate sempre il sito. Ringrazio tantissimo Federico Fragrasso per avermi fatto conoscere un sacco di bella roba della musica brasiliana. Grazie a te per avermi ospitato. Ok, prego. E non solo quello, ma vi ricordo che Federico Fragrasso ha questa nuovissima etichetta che per ora ha solo due dischi, i Caveiras e Lampreda. L'etichetta si chiama Urzuoni, per cui state attenti alle future release che ci saranno, appunto, e date un occhio ai loro concerti se vi è piaciuto tutto questo. Io un po' con tristezza vi lascio, perché è sempre bello venire in regia a fare le puntate, ma ho anche bisogno di staccare un po', e ci vediamo a settembre. Comunque sul sito troverete via via le news, e magari prende che si fa qualche speciale con qualcuno o da solo, chi lo sa. Comunque a prestissimo, grazie, ciao. Sì, magari metto il pezzo.

ajuda, esse refrão aparece. Ele é tão energético, tão carregado de significado, tanto que ele bota em xeque imediatamente todos os refrões. E ele é também plurissemiótico. Também plurissemiótico. Não é difícil entender isso. Veja bem. Não é difícil entender isso. Tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha, tô ficando atoladinha. Como se houvesse a permissão. Calma, pô, isso é permissão, porque os homens subiam mesmo na hora. Isso é a própria igreja católica que tá subindo, que tá proibindo a mulher de gozar. Isso é intuitivo. Quando o homem assobia nessa hora, já é.